Ricordo che nella giornata di stasera alle ore 23:59, quindi a mezzanotte in poche parole, è previsto un evento di live streaming organizzato dalla Sony, ovvero appunto l'evento è State of Play, ormai diciamo noto Direct a tema appunto PlayStation, dove verranno sostanzialmente presentate le nuove uscite previste nell'arco appunto dell'anno, comunque anche penso dell'anno, degli anni successivi. Sarà la cosa divertente, è il primo evento che inaugura un po' quest'estate. Si sa bene che nel gaming il periodo estivo perlomeno è un periodo molto ricco di uscite o comunque di eventi. Esisteva l'E3 un tempo, poi purtroppo è decaduto, però adesso si sono creati, diciamo, dei mini eventi come appunto questo State of Play, ma pure il Nintendo Direct mi viene da dire che è stato comunque uno tra i primi eventi di questo genere. E quindi, insomma, lo State of Play di questa sera inaugurerà la stagione estiva sostanzialmente dei titoli in uscita nei prossimi mesi. Sono già usciti anche dei leak in merito a possibili videogiochi che verranno presentati nel corso di questa serata. Per rispetto, diciamo, di chi vorrà vedere effettivamente lo State of Play di questa sera, non dirò, almeno leggendo le fonti online, che tipi di giochi sono, però diciamo che c'è qualcosa di interessante. E detto ciò, la puntata di oggi appunto è a tema fumettistico in realtà, non tanto videoludico. Quindi prima di parlare appunto di parlare con Nino che sta arrivando in radio, vorrei parlarvi di un gioco che oggi compie la bellezza di 25 anni, ma è reputato come uno tra i giochi paradossalmente più brutti di sempre. Quindi ha questa simpatica nomea. Parliamo del gioco uscito appunto ormai 25 anni fa su Superman 64. Io pensavo, cioè cacchio, parleremo di fumetti, se può parlare, non si può togliere appunto un argomento inerente a Superman. Dunque, Superman 64 è un titolo che uscì appunto 25 anni fa per l'allora Nintendo 64. E venne accolto sostanzialmente dalla critica come un gran videogioco, cioè oddio, non un gran videogioco, non esagero, però comunque un gioco godibile per certi aspetti. In realtà, con l'andare del tempo, è diventato un cult, però in negativo, cioè ovvero è diventato un gioco considerato appunto come uno dei videogiochi più brutti di sempre. Questo titolo fu sviluppato da Titus Interactive, e che già insomma non era esattamente famosissima per giochi insomma degni di nota, ebbe uno sviluppo abbastanza problematico anche per via di richieste continue da parte dei publisher, in questo caso Warner Bros. E la DC, di aggiungere dettagli o metterli, insomma modificare l'opera originale come effettivamente era stata concepita dagli sviluppatori dell'epoca. Come dicevo, per l'epoca, perlomeno qualche coraggioso giornalista ebbe il coraggio appunto di parlarne comunque bene di questo gioco, ma infatti le vendite di questo titolo comunque andarono tutto sommato discretamente bene. Il problema è che il gioco non era così appetibile, insomma non era così interessante, e infatti venne poi successivamente stroncato e massacrato da altri tipi di recensioni, tra cui appunto una tra le più note è l'Angry Video Game Nerd, che comunque fece un video su YouTube dove mostrò insomma sostanzialmente che tipi di problemi richiedeva sostanzialmente questo gioco, questo titolo. Fortunatamente sta arrivando il nostro ospite in studio, e prima di annunciarlo, lo volevo annunciare con una canzone dedicata appunto a Nino.

Prima di parlare appunto di questa ricerca selvaggia, io avrei qualche domanda magari su appunto esperienze professionali e cose così. Puoi raccontarci magari come hai iniziato la tua carriera come editor appunto di fumetti e manga? Allora, è molto particolare il mio inizio di carriera perché io sono palermitano, vivevo a Palermo dove non c'era negli anni 90 sostanzialmente niente, nel senso che c'erano delle fumetterie molto avanti, come Altroquando, il club del fumetto, che ti portavano in Italia anche le riviste giapponesi, che questa era una roba assurda. E praticamente, vabbè, io lì ho cominciato a sviluppare una passione per il fumetto, fin da bambino, e a un certo punto ho deciso che io volevo tradurre manga, perché nel 1991 mi imbattei in Japan Magazine, che era una rivista di manga e anime, che faceva le lezioni di giapponese sulla rivista. E quindi cominciai a imparare il giapponese, a scriverlo, a leggerlo, e quindi volevo lavorare con i manga. A un certo punto arrivarono i Kappa Boys, che in realtà sono i pionieri del manga in Italia, e i Kappa lavoravano per la Star Comics, che era la casa editrice di Dragon Ball, no? Giusto, giusto. Ma anche di manga, una tematica shoujo, mi sembra Beh, comunque. di tutto, la Star fa veramente tutto, tutto. Qualunque cosa tu voglia, la Star la fa e resterà per sempre la mia casa editrice preferita. Però vabbè, tornando a noi, io a un certo punto a 18 anni decido, non avevo nessun titolo di studio in merito, però decido che volevo lavorare con i K. Quindi scappo da Palermo, arrivo a Bologna. Io avevo sempre fatto il cameriere da quando avevo 14 anni, quindi avevo una discreta esperienza come cameriere nei ristoranti. Però volevo fare sti caspiterina di manga. Posso Ti dire chiedo, cazzo? Ah, dico puoi dire. cazzo, ok. Ho detto che mamma, ho detto cazzo. Vabbè. Allora, io volevo fare i manga e volevo lavorare con i Kappa Boys. Scappo da Palermo, arrivo a Bologna e a Bologna i Kappa, miracolo, avevano aperto un ristorante perché io non avrei saputo come approcciarli. Comincio a lavorare come cameriere nel ristorante e loro si rendono conto che però io parlo giapponese, che ho una cultura sui fumetti sconfinata, scusate, non volevo dirmelo da solo, però così. E quindi mi fanno fare una prova di traduzione, una prova di lettering, cioè inserire i testi nei balloon, e una prova di adattamento testi, cioè rivedere le traduzioni e renderle in un italiano che sia perfettamente corretto. Faccio queste prove, vanno bene e mi affidano i Cavalieri dello Zodiaco e Lupin. E io lì divento completamente pazzo. Questo è il mio inizio di carriera. Bene, beh, allora qui Nino ha citato uno tra i, diciamo, capisaldi della Sì. cultura manga, ma non solo, comunque anche l'anime era L'anime, stato mamma molto mia. seguito in Italia. Quindi io direi di passare un pezzo musicale. Assolutamente, ma proprio quel pezzo musicale però, eh? Ah, beh, certo, bene, partiamo con il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco. Cerchi troppa aridità, l'amicizia non ha più dignità. Sono i cavalieri dello zodiaco, grandi combattenti, mitici eroi. Alla fine solo uno l'armatore indosserà, il più forte infine vincerà. Questa era Il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco, musica, appunto, visto che Nino citava i Cavalieri dello Zodiaco, che mi ricorda tanti anni fa, quando ancora esistevano le audiocassette. E lo so, purtroppo sarò un boomer, come si dice, diciamo, attualmente, però ricordo i viaggi in macchina che facevo da bambino, e poi ogni tanto capitava, insomma, di sentire le audiocassette con Il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco, e quindi tante memorie del passato che riemergono da tanto tempo, insomma. Bene, Nino, allora io ti vorrei fare sempre un'altra domanda, insomma, inerente all'esperienza professionale. Tra le, diciamo, quali sono state le tue principali influenze nel mondo dei fumetti e dei manga? Cioè, c'è proprio un manga o qualcosa che ti ha colpito nel profondo? Beh, vabbè, se devo dirla tutta, alla fine i Cavalieri hanno avuto un ruolo determinante, specialmente nella loro incarnazione animata, perché per i ragazzini della mia epoca, era uno shock, tanto quanto lo fu per Kennel Guerriero con quelli appena precedenti. I Cavalieri dello Zodiaco sono stati il primo titolo che mi ha influenzato, per cui ho detto voglio imparare il giapponese, quando ho scoperto che in giapponese era completamente diverso dalla versione italiana. Poi ci rimasi malissimo perché faceva schifo rispetto all'edizione italiana. Ma te l'hanno fatto tradurre? L'ho adattato, ho fatto l'adattamento dei testi, cioè praticamente la localizzazione italiana, cioè rendere appunto l'italiano perfetto e con i modi di dire che differiscono da quelli giapponesi, in modo da, certo, far capire alla gente cosa sta leggendo. Questi furono gli ultimi tre numeri del manga, furono il mio primo lavoro, proprio iniziai così, poi il primo volume della prima serie di Lupin. Quindi anche Monkey Punch. Monkey Punch, con cui andai a cena in Giappone. Questa è molto divertente. Penso una delle persone più gentili e dolci che abbia mai conosciuto. E poi, vabbè, quella cosa che mi ha influenzato di più, ma lo sanno tutti, chi mi conosce lo sa, è Sailor Moon. Io ho solo due tatuaggi nel corpo, e uno, il primo è la scritta Sailor Moon in giapponese, il logo scritto da me. Quindi proprio Sailor Moon... Quindi dico, Sailor Moon, proprio passione vera che ti ha fatto crescere l'amore per questo lavoro. Sì, ma poi anche per un sacco di altre cose. Cioè, io grazie a Sailor Moon ho avuto una liberazione. Però sono cose su cui ci sarebbe da discutere tantissimo. Però Sailor Moon è stata proprio la folgorazione più totale. ed è, cioè, anche scoprire che lei ha il mio stesso segno zodiacale, il mio stesso gruppo sanguigno, mi fa dire, ok, siamo due rincoglioniti uguali, a posto. Fantastico, Nino. Ma quindi tornando un attimo, mi è parso di capire, il Cavaliere dello Zodiaco è stato quindi il primo lavoro a cui effettivamente Sì. hai lavorato. Come ti sei sentito in quel momento? Cioè, ti è sembrato proprio, cioè, immagino lavorare a cioè, un manga del genere di una calibratura, insomma, così importante come primo lavoro deve essere stato importante. Insomma, ti hanno affidato poi magari tanti altri Sì, anche manga serie di. minori, cose. Cioè, i Cavalieri, per me, cioè, avere come primo titolo i Cavalieri, poi affiancato da Andrea Pietroni, che era il precedente adattatore, e Andrea è uno storico dei manga, è appunto uno dei capoboys, ha portato i manga in Italia. Quindi, per me, lavorare con loro e lavorare a un titolo del genere era un onore, un sogno quasi realizzato, cioè un sogno realizzato, neanche quasi, proprio, era il mio sogno lavorare su una cosa del genere. E l'ho fatto. Ed è difficile, diciamo, adattare o capire più o meno i detti, cioè, nel senso, come hai detto, i Sì, detti, riadattare gli adattamenti. tutto. Guarda, ti dirò, i Cavalieri era abbastanza semplice perché tanto è tutto un ti ammazzo, ti taglio la testa, ti faccio cadere le braccia, non mi avrai mai, cioè tutte queste cose, tutte queste frasi tipiche che comunque se sei, cioè, se sai il giapponese e hai letto i manga in giapponese sono frasi che ti vengono facili anche da Capire. intuire. Mentre a un certo punto, in questi ultimi tre numeri, c'è stato un momento in cui anche Keiko Ichiguchi, che era la traduttrice del manga, che è una fumettista giapponese molto famosa e vive a Bologna, lei aveva difficoltà perché a un certo punto Crystal, il Cavaliere del Cigno, impazzisce e ha una tecnica nuova di combattimento, però il colpo viene lanciato in russo e lei non riusciva a capire come fare a traslitterare i termini giapponesi e renderli in russo. Non si capiva un cazzo perché il colpo era in russo ma scritto in giapponese con un alfabeto che è il katakana che serve per scrivere le parole straniere in Giappone ma facendolo capire ai giapponesi. Qui c'era questo termine in russo che però era tutto da traslitterare, so che è un discorso un po' complicato. Quello è stato l'unico momento in cui ho detto maledetti cavalieri dello zodiaco, perché non riuscivo neanche io a capire, non conoscendo il russo, Come che caspita adattarlo? ci fosse scritto e come adattarlo. Abbiamo fatto i salti mortali, quel volume uscì in ritardo di una settimana per questo motivo, pensa un po'. Però io ero nello stato dei sogni, cioè facevo i cavalieri dello zodiaco. Facevi il lavoro tuo, Facevo il diciamo. lavoro mio di cioè quello che volevo fare, cioè l'editor, e quindi era bellissimo. Beh, magnifico, magnifico. Allora, Nino, io direi di passare un altro pezzo musicale. Tu prima hai citato Sailor Moon, quindi ho chiesto alla regia di omaggiarti con una delle musiche, Grandi. anzi, con più delle musiche su Sailor Moon. Dunque, io direi di partire con uno dei pezzi. Sailor Moon, guarda in ogni cuore per vedere se c'è il cristallo chiaro e puro dell'amore. Sailor Moon, corri per noi, scintillante Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon, vai dove vuoi, sfavillante Sailor Moon. Sailor Moon, quel cristallo che vedrai nei cuori canditi. rosa Sailor Moon. Guarda in ogni cuore per vedere se c'è il cristallo chiaro e puro dell'amore. Sailor Moon, corri per noi, scintillante Sailor Moon. E torniamo in diretta. Allora, questo era un pezzo di Cristina D'Avena, Sailor Moon e il cristallo del cuore, che però, diciamo, chi ha un orecchio un po' più musicale potrebbe riconoscere una certa assonanza con una canzone molto simile, mettiamola così. Mo io non sto dicendo che è un plagio, mi dissocio nel caso, però dico se... L'ho detto anche Striscia la Notizia a suo tempo. Vabbè, io comunque, anche se l'ha detto Striscia, l'autorevolissima Striscia la Notizia, mi dissocio comunque. Pare, assomiglia comunque vagamente a un pezzo di Madonna. Dico semplicemente questo. Sai dirci quale... Lo racconto io, somiglia alla Isla Bonita. E in effetti... È vero che somiglia alla Isla Bonita, per riprendere proprio gli accordi della Isla Bonita, anche i cori e tutto quanto. Quindi, cioè, è proprio molto simile, ma d'altronde per Sailor Moon tre sigle sono state, come si dice? Fatte. Sono state realizzate, ma ne sono state realizzate cinque, di cui tre sono dei plagi di altre canzoni. Beh, meraviglioso lavoro di Mediaset, immagino, perché sì, comunque... Fantastico. Comunque ancora Fininvest. Ok, però comunque queste notizie di cronaca, diciamo. Esatto. Allora, caro Nino, io passerei a un'altra domanda, diciamo un po' più tecnica, tornando sempre all'argomento del fumetto, e parliamo appunto magari del processo di lavoro di un editing, di un editor. Mi puoi descrivere, nel caso, il processo appunto di editing di un fumetto, di un manga, e anche le fasi magari principali in merito appunto a ciò? Allora, praticamente, vabbè, intanto l'editor solitamente, il mio è un ruolo un po' strano, perché io mi occupo anche di scegliere proprio i manga da pubblicare in Italia, quindi il mio lavoro di editor comincia un po' prima che rispetto a quello dell'editor vero e proprio. Quindi io scelgo il manga, decido cosa pubblicare, me lo affidano e la sostanza è questa: arrivano le traduzioni in Word in qualsiasi altro formato, diciamo, di scrittura. Mi arrivano le traduzioni dal giapponese, quindi già tradotte, in alcuni casi li traduco io, ma sono casi veramente sporadici, e mi arrivano appunto le traduzioni su un file, e io devo ricostruire l'italiano delle traduzioni, nel senso che quando ti arrivano tradotti, molti modi di dire magari sono presi dal giapponese, dipende da quanto il traduttore è bravo. Dopodiché io appunto faccio un file a parte con tutti i nomi dei personaggi in cui mi disegno e che ruolo hanno, in modo da ricordarmeli, perché magari un personaggio compare nel volume 1 e poi si rivede nel volume 15, dici chi caspita è questo. Sostanzialmente appunto faccio questo file e man mano mi annoto i personaggi. Nel frattempo rivedo le traduzioni, controllo che l'italiano di queste traduzioni sia corretto e Per esempio, che ne so, se un personaggio parla in un dialetto giapponese, che può essere tipo il dialetto di Osaka, che è molto simile al napoletano per inflessione, perché è tutto. Quindi se loro. Saluto i nostri amici e ascoltatori e ascoltatrici napoletani. Salutiamo anche Nino D'Angelo che ci sta ascoltando sicuramente. Assolutamente. Lui è grande fan di. Come? Di A-Listen, lo ascolta. Comunque, è un grande gamer anche lui. Comunque, dicevamo, appunto, io se dei personaggi parlano in dialetto, spesso non puoi renderlo perché è impossibile, però. Per esempio, in alcuni casi mi permetto di fargli parlare un po' di romano, di romanaccio o di siciliano, in modo che però i termini diciamo un po' più vicini all'italiano, in modo Perdere da comprensibile. rendere comprensibile, anche da restituire l'esperienza del lettore giapponese al lettore italiano. Dopodiché, niente, ricontrollo appunto queste traduzioni, faccio in modo che tutto scorra e che sia coerente. Cioè, se un personaggio a pagina 15 ha detto una frase e a pagina 50 viene fatto il flashback in cui lui ridice questa stessa frase, io mi devo ricordare che se è stata tradotta in due modi diversi, devo utilizzare una sola traduzione, cioè la scelta primaria. Questo è sostanzialmente il mio lavoro da editor. È molto interessante. Io credo che comunque si avvicini, per quanto in un modo leggermente diverso, anche alla localizzazione, diciamo, dei È videogiochi. esattamente uguale, solo che forse nei videogiochi non puoi usare le inflessioni dialettali. Su questo argomento confesso l'ignoranza perché non gioco molto, ecco. Ma in realtà ci sono stati dei casi in cui hanno messo dei dialetti, diciamo, non esattamente consoni con il Con il gioco con gioco, cui ok. stavi giocando. E di conseguenza molte persone, vedendo questa cosa, l'hanno, come si dice, memato, cioè scherzato, ci hanno scherzato sopra. Altri, diciamo, un pochettino più Se sono suscettibili, si sono incazzati. arrabbiati molto, insomma, non hanno preso proprio bene questo fatto del mettere appunto dei dialetti, specialmente il romano e napoletano, su una certa categoria di personaggi, insomma, di certi contesti. Però adesso che Nino ci ha contestualizzato meglio il perché si fa una roba del genere, forse inizia ad avere un minimo di Minimo di senso senso. ed è già leggermente più giustificabile. Allora, Nino, io passerei un altro pezzo. Lo so, Dai. sembriamo monotoni, però, come ho detto, No, alla regia abbiamo dedicato oggi i pezzi, diciamo, musicali che piacciono più al nostro caro ospite, e quindi un altro pezzo di Sailor Moon è cari dai. Aridai, Aridai, e quindi si va con questa sigla di Sailor Moon. Ci veglierai e combatterai E torniamo in diretta. Allora, caro Nino, qui abbiamo come ospite appunto Nino che ci sta raccontando la sua esperienza lavorativa nel campo dell'editor e dei fumetti. E ribadisco, è un grande onore potercelo avere come ospite e che poter avere insomma un riscontro su questo campo, che comunque è un campo molto interessante. E, proprio in base appunto ai processi lavorativi, ho un'altra domanda da porti. Allora, come si fa la selezione dei titoli su cui appunto effettivamente vuoi lavorare o puoi lavorare? E ci sono magari dei criteri che utilizzi per selezionare appunto nuovi progetti o comunque non so se magari è dovuto da le case, cioè i publisher sostanzialmente dei fumetti, dei manga in Italia? Allora, molto dipende dai publisher, perché comunque devi stare a delle regole, cioè se un editore non pubblica fumetti erotici non puoi proporgli un fumetto erotico, cioè sarebbe da pazzi. La mia scelta, solitamente i miei criteri si basano su non tanto sul disegno, perché quello è veramente soggettivo, ma quanto sul valore della storia, cioè se le storie hanno un senso e possono avere un messaggio molto forte, che sia contro l'omofobia, comunque per dirne uno, temi sociali, io sicuramente è una delle cose che propongo. Poi cioè io amo molto le storie d'amore, sono una cessa su questa cosa, cioè veramente, cioè proprio neanche un lettore di Harmony sarebbe, una lettrice di Harmony sarebbe così sdolcinata, ma io le storie d'amore proprio sono quelle che prediligo e che vorrei tantissimo che fossero lette il più possibile, perché sotto un certo punto di vista mi rendo conto che adesso c'è un'educazione sentimentale che manca. Ah, sì, purtroppo è vero questo dilemma che, insomma, che ci hai posto, Tino. E, bene, io direi anche di parlare di un argomento che potrebbe interessare sempre i nostri ospiti, stavolta, diciamo, sì, da un certo punto, sempre di un processo lavorativo, però più, diciamo, su collaborazioni, così. Ma ci hai raccontato prima che hai avuto l'onore di poter lavorare con un autore così importante come Monkey Punch, che ribadisco ha fatto Lupin sostanzialmente come lo conosciamo noi, l'anime anzi ha subito anche delle trasformazioni rispetto... Sempre approvate da lui, Assolutamente, su questo certo approvato dall'autore, però comunque ha avuto comunque dei cambiamenti. Comunque hai avuto modo di lavorare appunto con Monkey Punch, io credo, poi non lo so, penso avrei avuto l'onore anche di lavorare con artisti o autori specifici, e hai avuto magari un rapporto speciale magari con qualcuno di questo, se ovviamente si può dire, attenzione, non voglio causare problemi lavorativi a Nino con gli editori, e magari ci sono clausole o cose del genere, però ovviamente se si possono raccontare... Guarda, Monkey Punch, ovviamente ci sono anche le prove fotografiche delle mie scene con Monkey Punch, quindi direi che quello... Lui è andato. Sì, ecco, lui è andato, cioè abbastanza... Di altri autori non posso parlare, sì, per contratto, poi gli autori giapponesi hanno molti... un sacco di clausole quando lavori con loro. Quello di editor è un lavoro che fai solitamente da solo. Se hai gli autori americani, quando fai le serie americane, hai un autore americano che stimi e con cui vuoi lavorare, è molto più facile. Con i giapponesi è un casino vero, perché sono trattati in Giappone come le star, quindi è molto difficile riuscire a incontrarli o averci un rapporto lavorativo. Potrei citare Naoko Takeuchi, che è l'autrice di Sailor Moon, e Chiroda, ma non in un contesto lavorativo, ma non posso raccontare niente, però è molto divertente. Hayao Miyazaki, perché ho fatto delle robe al Museo Ghibli, l'ho incontrato, è uno molto, molto difficile e riservato. Chi altri? Tanti autori minori, Akemi Takada, che è l'autrice di Crimi, e ha fatto il character design di Lamu, se non mi sbaglio, adesso c'è un vuoto. è quasi magia Johnny. Ho conosciuto lei per caso mentre ero a una sua mostra, era l'ultimo giorno della mostra a Tokyo, e mentre ero lì la tizia della reception mi dice: ah, lei è un giornalista, è molto, perché scrivevo per una testata che parlava di cartoni animati, è molto fortunato perché la maestra Takada è qua e io lì svengo perché lei è una delle mie autrici preferite, quindi sono impazzito, e le ho fatto un'intervista improvvisata in una caffetteria vicino al museo dove esponeva. Ma poi vabbè, altri autori, vabbè, Grant Morrison, restando in tema, cioè passando ai Marvel, alla DC, Grant Morrison ha fatto The Invisibles, gli X-Men, Batman, un ciclo di Batman bellissimo fra l'altro, ha scritto All Star Superman, da cui prende spunto il prossimo film di James Gunn, insomma, cioè, un po' di autori li ho conosciuti. Poi non saprei, è molto difficile però che lavorando... Ce n'è proprio uno che ti è rimasto nel cuore, perché ho detto, cavolo, sono orgoglioso di aver lavorato effettivamente con lui. Monkey Punch, senza dubbio, proprio la persona più dolce, squisita, più educata dell'universo, anche per il giapponese è fin troppo educato. E tu dici, ma questo fa i fumetti dove a un certo punto Fujiko rimane nuda, tutto sto caos delle femmine che vanno a letto con Lupin e poi si tolgono la maschera e su Zenigata, ma questo fa delle cose così e poi è una persona educatissima. Cavolo, se lo è. E poi un altro con cui mi è piaciuto molto lavorare è l'autrice di Wedding Peach, Naoya Yazawa. Wedding Peach era la rivale diretta di Sailor Moon in Giappone, erano le combattenti vestite da sposa, non ridete, ma era così. Stai ridendo, lo sapevo. Tu puoi ridere. Tu sei la regia, puoi ridere. Un'autrice con cui ho lavorato e che mi è piaciuto, con un autore con cui mi è piaciuto molto lavorare, mi è passato di mente in questo momento perché mi sono distratto sulla storia di Lupin. Vabbè, Monkey Punch senza dubbio. È l'autrice di Sailor Moon che però, e lo dico qui, e tanto lei lo sa che lo penso, è una stronza. Ah, attenzione, attenzione. Questo non me lo sarei mai aspettato, onestamente, da Nino. Allora, Nino, io ho un'altra domanda sempre da porti. Come si gestiscono magari delle differenze, come dire, creative con gli autori o gli artisti durante un processo di editing? Cioè, magari, non lo so, il publisher vuole tradurlo in un certo modo, però quella traduzione non ti piace, cioè proprio non sei d'accordo, perché l'adattamento secondo te dovrebbe essere fatto in un certo modo. Beh, nel caso del mio lavoro specifico su fumetti, comunque è una cosa che scegli tu da solo, le case editrici ti lasciano molto libero. Mi ricordo quando ho fatto l'adattamento, anche la traduzione del cartone animato di Legion of Superheroes della DC, la legione aveva dei termini, delle cose che però non potevano essere mantenute in una trasmissione per bambini, la Warner mi si letteralmente in culo, perché mi disse: no, in Italia abbiamo delle restrizioni, ma non mi avevo mai dato neanche diciamo un vade mecum, come caspita si dice, su come tradurre quella serie lì. Cioè, in America il target erano gli adolescenti, forse ho rotto tutto, erano gli adolescenti, quindi io utilizzavo un tipo di linguaggio e me l'hanno cassato tutto, ho dovuto riscrivere completamente i testi. Quindi, insomma, diciamo, non succede quasi mai sostanzialmente, no, da editor. No, quasi mai. Ok, beh, interessante a sapersi. E, va bene, come ho già detto, siamo sempre più o meno, diciamo, su lavori e cose così. Il progetto proprio che sei più orgoglioso? Allora, vabbè, intanto ce ne sarebbero almeno due. E se puoi raccontaci qualcosa. Sì, ce ne sono almeno due. Il primo... Rainbooks, che è la mia casa editrice di fumetti LGBTQI, bla bla bla bla, e siamo stati i primi a portare in Italia con consapevolezza i fumetti con quella tematica, e di quello proprio, cioè, sono orgogliosissimo, perché da lì in poi tutte le case editrici hanno spalancato le porte ai fumetti LGBT, con un senso, non buttandoli a caso. Adesso Rainbooks non esiste più, però diciamo che è rimasto comunque uno dei miei progetti più grossi, per la mia casa editrice, c'ero io l'editore, ecco. Scusa, no, hai fatto bene a dire minchia, perché... E poi il secondo, che però è mastodontico, quando dei giapponesi mi hanno scelto per tradurre la Style Guide, sostanzialmente la guida ai personaggi di Sailor Moon nel 2008, tradurla in giapponese, in inglese e in italiano, e la creazione del Sailor Moon Magazine per giochi preziosi, in cui ho dato sfogo a tutta la mia cultura su Sailor Moon, e i giapponesi stessi, l'autrice stessa di Sailor Moon, rimase impressionata dicendo: ma come fai a sapere determinate cose? È perché sono un otaku del cazzo. Perfetto, Nino, perfetto. Allora passo, io direi passiamo un pezzo musicale, che dici? Che LGBT, che anche... quindi si collega comunque anche alle tematiche. Oh, poi siamo mi dissocio. Bene, passiamo a questo pezzo. Guarda il lampo che laggiù attraversa il cielo blu. Lady Oscar, è una luce abbagliante, dura solo un istante. Poi c'è il rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma in un attimo il silenzio c'è. Lady Oscar, tutto questo è proprio come una battaglia. E tu lo sai, Lady Oscar, la tua grinta come un lampo tutto abbaglia. Ma come fai? E torniamo in diretta. Allora, Nino, abbiamo altre domande. Siamo quasi in chiusura di puntata, ma ci sono delle domande che sono, insomma, interessanti. Mi piacerebbe appunto avere delle risposte. Non mi muovo da qui. In realtà sono stato legato, ragazzi. No, assolutamente. L'abbiamo legato qua in radio con noi. No, vabbè, sei simpaticissimo. Allora, andiamo avanti. Parliamo un po' dell'industria, appunto, del fumetto. Volevo farti. Se non muori, no, vabbè, certamente. Parliamo dell'industria del fumetto e dei manga. In questo momento, come la vedi l'evoluzione del mercato dei fumetti e del manga in questi ultimi anni? Perché comunque noto che c'è una grande, insomma, affluenza rispetto, ovviamente, io ricordo anche gli anni 90, e negli anni 90, almeno parlo per l'Italia, non era esattamente il massimo per alcuni comprare manga. Dice, ma sei matto, cos'è quella roba? Poi si legge al contrario, ma aiuto. Invece adesso, insomma, mi sembra che la situazione sia leggermente cambiata, per fortuna. La situazione è molto cambiata e dobbiamo tutto a due fattori. Dragon Ball, che fu un successo inimmaginabile anche se si leggeva al contrario, e Zero Calcare, il carissimo Zero Calcare, che ha sdoganato il fumetto in Italia e ora finalmente, ora anche GP e altri autori l'hanno fatto, però la specificità di Zero Calcare è stata che è riuscita a acchiappare della gente che veramente non avrebbe mai letto un fumetto in vita sua, quindi dobbiamo tutto a lui, e devo dire che il mercato dei fumetti e dei manga, che sostanzialmente sono la stessa cosa, ecco, perché manga è semplicemente la parola per dire fumetto in giapponese, tanto che io quasi faccio fatica oggi a distinguere, nel senso, per me è un fumetto e va bene così. Ci sono anche quelli che si attirano a dire le graphic novel, però sì, ok, le graphic novel, però è un fumetto comunque, non è una graphic novel, si chiamano fumetti in ogni caso. C'è una grandissima inflessione di vendite, cioè proprio spropositata, tanto che se leggete le classifiche dei libri settimanalmente, i manga sono sempre tra i primi posti dei più venduti in libreria, e tiene conto, quelle classifiche lì tengono conto solo delle librerie, non delle fiere, non delle fumetterie, non dei singoli siti degli editori, quindi i numeri sono molto più alti anche rispetto a quello che si può vedere. Al momento la cosa più venduta in libreria, più che i manga, che sono comunque sempre nei primi posti delle classifiche di lettura, specialmente One Piece. One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, quegli shonen lì, che sono poi i fenomeni di massa in Giappone, sono sempre fra i primi posti. Però adesso c'è questa nuova tendenza, perché i ragazzi, gli adolescenti hanno ricominciato a leggere i fumetti, e quindi i fumetti per ragazzini sono quelli più venduti, cioè quelli dell'editore del Castoro, come Smile, per esempio, sto dicendo dei nomi a caso, magari non li conoscete, o anche i fumetti degli youtuber, adesso non mi ricordo i nomi perché sono un ignorante, un boomer di merda, però i fumetti realizzati dagli youtuber, o comunque da qualcuno che ha un'esposizione mediatica maggiore, sono sempre quelli più venduti nelle librerie. Ma le tendenze invece che ti entusiasmano di più, cioè proprio dici il genere magari del manga e dici cacchiarola, questo sì è fichissimo, a me piace da morire, cioè se c'è, ovviamente, se pensi che ci possono essere delle tendenze, insomma, anche attuali, insomma, al di là degli shonen che hai già citato per ragazzi. Gli shonen sono sicuramente i più venduti, ma per mio gusto gli shonen un po' mi annoiano, nel senso che alla fine, dopo tanti anni di letture di manga, io li trovo tutti, non dico tutti uguali. I shonen sono quei fumetti indirizzati principalmente ai maschi, cioè ai ragazzetti da metà dai 12, anche se si leggono già dagli 8 anni, fino ai 30 anni, facciamo così, poi dopodiché tu dovresti passare ai seinen, che sono un'altra categoria ancora, ma vabbè. Gli shonen appunto sono Dragon Ball, Slam Dunk, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, tutti questi qua, i grandi blockbuster. Poi ci sono gli shoujo, che sono la mia categoria preferita. Gli shoujo sono i fumetti per ragazze, che sostanzialmente sono erroneamente etichettati come storie d'amore, ma non è vero, perché tu puoi leggere uno shoujo manga di fantascienza, uno shoujo manga horror, uno shoujo manga di combattimento. Ci sono svariate tipologie di shoujo manga, non sono solo storie d'amore. È vero che il principale mercato parla di storie d'amore, ma non è così infrequente trovare tutti gli altri generi in mezzo al target degli shoujo. Non so se sto dicendo delle cose sensate, se si capisce. Ecco, ok, perché per me è tutto chiaro, ma magari... dicevamo, è per me il mio maggiore... quello che vorrei pubblicare sono gli shoujo. Gli shoujo per me sono tutto, perché penso che le autrici femmine abbiano una sensibilità maggiore rispetto a quella maschile, o meglio, mi spiego meglio, i maschi sono comunque bravissimi e fanno delle cose pazzesche, le ragazze, un po' per retaggio culturale, un po' perché sono sempre state spinte da un intimismo maggiore che gli è stato proprio inculcato in testa, sono capaci di una profondità dei personaggi e di una di rendere una tridimensionalità dei personaggi in una maniera veramente maggiore. Penso solo a un manga molto vecchio che si chiama Proteggi la mia terra, che parla di reincarnazioni, ed è una roba che tu dici che la storia d'amore è l'ultimo dei miei problemi, io voglio capire che cazzo gli sta succedendo a questi personaggi e perché stanno così male. Non mi ricordo più la domanda, forse sto sproloquiando perché ho sproloquiato come al solito. No, va bene, va benissimo, Nino, hai risposto, insomma, le tendenze, la tendenza attuale che ti rispecchia, che ti piace di più, nonostante adesso stia andando in voga molto, insomma, gli shonen. Così tu mi hai risposto dicendoci che gli shoujo sono sostanzialmente i manga preferiti. Sì, anche cioè, i miei, perché i miei manga preferiti. Se devo parlare di tendenze, c'è anche un'altra tendenza, cioè i boys love. Non so se hai mai sentito parlare dei boys love. Onestamente no. Sente no. Ok, i boys love sono quei manga con personaggi gay, okay, maschi, okay, che però sono disegnati e scritti da autrici donne, etero sostanzialmente, indirizzati a un pubblico di donne, non di maschi gay, che, perché le storie sono sempre assurde e sono proprio a misura di donna, hanno una sessualità idealizzata, è bellissimo, cioè sono molto belli, sono molto divertenti. Se sei un maschio gay dici questa cosa non la farei mai, maledizione, e ci sono dei codici, e sono sostanzialmente storie per la maggior parte erotiche di uomini che vanno a letto con altri uomini e però con una sensibilità femminile, e sono molto belli, molto divertenti. Perfetto, perfetto. E stravenduti. Beh, ci credo, dai. Allora, altre domande, diciamo, siamo proprio addirittura quasi d'arrivo di chiusura di puntata, ma hai qualche consiglio che vorresti dare magari a chi effettivamente vuole intraprendere la carriera di editor di fumetti e manga? Beh, intanto conoscere un po' la lingua giapponese, se ho la lingua dei vostri fumetti preferiti, che sia l'inglese, che sia lo spagnolo, l'argentino, cioè lo spagnolo, sostanzialmente, che ho il francese, fate in modo di conoscere quantomeno le basi della lingua, per poter correggere eventuali errori di traduzione o cose che non vi tornano. L'altro consiglio che posso dare è: frequentate il mondo del fumetto, fatevi una cultura sul fumetto in generale, non solo sui manga, perché spesso, e soprattutto adesso, è tutto amalgamato, c'è un confine molto sottile fra manga, basti pensare ai manga fatti in Europa, e fumetto generico, cioè fumetto di tutto il mondo. E fatevi una cultura sui fumetti e presentatevi sempre come degli esperti, cioè, purché lo siate realmente, questo vi ripagherà, e soprattutto la conoscenza dell'italiano, raga. Se non sapete l'italiano, un lavoro del genere non lo potete fare. E io, non lo so se sono l'italiano, però mi dicono che sono bravo, io devo dire no. Penso proprio di sì, insomma, per aver coperto una carriera simile, aver adattato, insomma, diversi manga, diversi fumetti, aver conosciuto autori di quel calibro, insomma, così importanti, e presumo che, insomma, abbia fatto un ottimo lavoro. Benissimo, grazie. Benissimo, Nino, io manderei un altro pezzo e poi siamo in chiusura. 「熱に浮かされ」 愛を飛んでさ誇りかぶってた高台の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かの愛をで一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことをつまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス知識過剰に照れた夜をぶっ飛ばせ宝箱に興味はないけどポケットにロマンそれと You wanna be my friend We are, we are on the coast We are 愛しての夢をかき集め探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are, we are on the coast We are, we are, we E torniamo in diretta, e questo era We Are di Hiroshi Kitadani, che è un grandissimo autore, ha fatto appunto questa sigla che è la prima sigla di One Piece, quindi è veramente rimasta nella storia proprio delle musiche, delle colonne sonore dedicate magari proprio a un anime specifico, ovvero un cartone animato giapponese per chi non lo sapesse. In questo caso di One Piece, che comunque continua ormai da quasi da oltre 30 anni circa ad andare avanti per la sua strada. Sembra stia finendo. Purtroppo sì. Io ci aggiungo sì perché lo continuo a seguire settimana dopo settimana, anche se ogni tanto capita che Oda decida di fermarsi giustamente, perché insomma è umano pure lui, quindi ha i suoi tempi, al contrario di alcuni che purtroppo pretendono che ogni settimana esca un capitolo su capitolo, ma non si può fare, perché insomma sennò c'è il rischio che magari si faccia la fine di un altro mangaka che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, come Kentaro Miura di Berserk, ma questa è un'altra storia. Bene, Nino, io direi di tornare sempre sull'argomento e volevo chiederti, c'è un personaggio o una serie su cui effettivamente sogni di poterci lavorare magari un giorno? Guarda, ti dirò, sicuramente, e non è in ambito manga, sono gli X-Men. Io vorrei lavorare sugli X-Men tantissimo, ma non so se come editor, se voglio scrivere un saggio, non lo so, però vorrei lavorare con gli X-Men. Mi hanno affascinato molto. Poi adesso c'è anche una serie su Disney Plus che è uscita recentemente, che si rifà a una nota serie degli X-Men animata degli anni 90. Poi hanno cambiato, immagino, delle dinamiche, però su questo, insomma, non ci metterei la mano sul fuoco, ma magari Nino sì. No, allora sostanzialmente X-Men 97, che è la serie nuova, è il seguito della serie che abbiamo visto noi da bambini. Quindi sì, un po' di dinamiche sono cambiate, l'animazione è pazzesca, le storie sono allucinanti, io consiglio a tutti di vederla perché forse è il più bel prodotto Marvel uscito negli ultimi anni. E io sono uno che comunque con i prodotti Marvel ci dà dentro veramente. Io ho cominciato a leggere sui fumetti Marvel, sono un fan di Spider-Man, sono un fan che ancora continua a chiamare Uomo Ragno, pensate quanto sono vecchio. Sono soprattutto un fan degli X-Men perché fin da bambino sono stato il primo fumetto che mi faceva dire: vabbè, sei un caos, sei diverso, c'hai mille cazzi, evviva che sei così. Per me gli X-Men sono stati tutto. Bellissimo, bellissimo, sono strad'accordo con quanto detto appunto da Nino. E ascoltami Nino, ma sempre tornando a parlare di manga e di futuro, o comunque di queste dinamiche qui, in Italia secondo te quanto successo potrà avere effettivamente il manga? Perché prima abbiamo detto che comunque effettivamente grazie a dei grandissimi, cioè a parte gli shonen come abbiamo già detto famosi tra One Piece, Jujutsu Kaisen e simili, e il riscontro anche di un autore così importante come Zero Calcare, il fumetto continuerà effettivamente in Italia a mantenere questo successo come nel mondo che comunque ha un grandissimo successo? Se non ci montiamo la testa, sì, nel senso che dobbiamo anche smettere di, e questo lo dico anche a me stesso, di portare in Italia o di realizzare serie italiane che siano spazzatura. Cioè ci vuole il più possibile che tutto abbia un livello molto alto, altrimenti è una bolla destinata a scoppiare molto presto, perché comunque i prezzi si alzano, c'è la guerra, giusto per citare una cosa Allegra. allegra, c'è lo streaming che è un'ottima alternativa a dei prezzi che non sono così eccessivi. Secondo me, bisogna muoversi in una maniera che il fumetto sia accessibile a tutti e non diventi una cosa d'élite, altrimenti ce lo giochiamo. Molto bene. Io ho una domanda qui che però proprio penso ci Vai. potrai parlare, non lo so. Ci sono dei progetti futuri che hai effettivamente Nino in mano? Puoi darci eventualmente qualche dettaglio, non so, qualche spiegazione, perché chissà, immagino che con tutti questi autori, tutte queste Aiuto. cose, ci sarà un progetto importante. Allora, diciamo che adesso faccio un'anticipazione e un coming out qua, perché prima di tutto, al momento, io sono stato fermo per 6 mesi, per svariati motivi, mi sono fermato, un po', sono successo un po' di cose nella mia vita anche abbastanza pesanti. Cercate la mia biografia su Wikipedia, no, non è vero. E quindi sono stato fermo. Poi a un certo punto ho deciso: va bene, ok, Nino, non puoi lasciar perdere la tua carriera così a caso, semplicemente perché sono successe queste cose, riprenditi. E sono rientrato nel mondo del fumetto in una maniera abbastanza veloce anche, non pensavo. Per il momento sto collaborando con Magic Press, che è la casa editrice principale per Boys Love in Italia, e sto facendo da editor per delle cose. Non posso dirvi ancora cosa perché non sono state annunciate, ma quando le annunceranno sarà molto bello. E invece qui Dai, possiamo fare un annuncio in anteprima, non lo avevi. sa nessuno. Sì, me lo sono tenuto per oggi. Il contratto e i materiali sono arrivati già da un po' di tempo. Io non so quanto potrà essere interessante per i nostri ascoltatori in No, questo momento, effettivamente. perché l'autore è molto di nicchia, ma sono molto contento di riportare in Italia Ralph Koenig, che è il più grande fumettista gay tedesco che sia mai esistito. È molto famoso per cose come Conrad e Paul, pubblicate da KP Edizioni a suo tempo, e noi stiamo per riportarlo in Italia. L'ultima pubblicazione di Ralph pubblicata in Italia l'abbiamo pubblicata noi di Rainbooks nel 2019, nel 2015, che è Il Condomo Assassino, da questo ho tratto un film. Adesso, noi, come The Wall, che è una piccola etichetta appena nata, creata da due miei amici, che sono molto in gamba e che stanno cominciando i primi passi, sono molto in gamba nei loro rispettivi lavori, ma stanno cominciando i primi passi del mondo dell'editoria, però l'entusiasmo che hanno è veramente pazzesco. Abbiamo deciso di creare una linea di fumetti che annunceremo. Il primo titolo che lanceremo appunto è questo di Ralph Koenig, che si chiama Popper, Rimming e Nipple Play. Non sto a spiegare cosa sono, andatevelo a cercare. È un fumetto comico molto divertente. Bene, bene Nino. Allora io con questo annuncio bomba, inaspettato, complimenti, e sono felice insomma di queste uscite, e sicuramente se ci sarà l'occasione penso che leggerò con molto piacere insomma il fumetto che uscirà. Ci sarà. E ho un'ultimissima domanda, grazie. Proprio così. Al di là, adesso abbiamo parlato del fumetto, dell'editing, di com'è il mercato, insomma tanti argomenti inerenti al fumetto, ma al di là del fumetto avrai anche, diciamo, altre passioni, no? Quindi io volevo chiederti, ma come trascorri il tuo tempo libero quando effettivamente non sei, diciamo, occupato con l'editing? Quindi magari, non so, magari esci, vai in concerti o cose del genere. Beh, allora, il mio tempo libero sostanzialmente non è libero, perché riesco a fare un lavoro e tutto quello che faccio diventa un lavoro. Insegno giapponese a delle ragazzine di 12 anni presso il Pianeta Sonoro, che è una scuola di musica, quindi salutiamo, che ci stanno ascoltando sicuramente Mira, Claudia e Nina, che sono le mie studentesse principali, diciamo. Appunto insegno giapponese, poi che faccio? Frequento i circoli arci, perché ci lavoro anche, quindi 30 Formiche, Fanfulla, insomma Angelo Mai, Pianeta Sonoro e compagnia bella, vado sostanzialmente a ballare in quei locali lì, ma concerti? Ma concerti sì, no, ma non faccio concerti, in realtà faccio il DJ, sono DJ Cessa. Perché metto la merda, questo è lo slogan. Adesso il progetto è cambiato in No Kiwi, perché io sono allergico al kiwi, vabbè, è tutta una cosa, che è il progetto estivo che abbiamo lanciato con il Fanfulla e Barattico. È presente Barattico? Sì, Barattico, sì, sì, ecco. Salutiamo Sara, amiche, soprattutto Sara e Chiara, che ci sta ascoltando sicuro. Sara non lo so, ma Chiara sì, ne sono sicurissimo. Con loro abbiamo lanciato appunto questo progetto No Kiwi, che è il mio progetto estivo da DJ. Fino adesso mi hanno detto è molto più intimista di DJ Cessa, grazie al cane. Comunque, poi che faccio? Boh, non lo so, tu mi sai dire cosa faccio? Ma ci divertiamo, leggiamo fumetti, si va in giro, se magna. Io mangio e dormo tantissimo, ma soprattutto leggo un sacco di cazzo di fumetti, ragazzi. Se mi incontrate sull'autobus o sulla metro, io ho sempre un fumetto in mano, lo sto leggendo. Possibilmente nel giro di un'ora me ne leggo 5-6, sono pazzo. Dai, nonni. Non c'ho proprio niente da fa. Ma non è vero, dai. Perfetto, ragazzi. Siamo in questo punto, proprio in chiusura di puntata. Ringrazio Nino Giordano per essere venuto. Ma che è? Grazie a te che mi hai invitato, è stato bellissimo. Cioè, quando vuoi, le porte sono sempre aperte qui di Pirate Radio e di Eristen, quindi sono veramente felice di aver avuto questa ospitata. La puntata, come potete vedere, è durata leggermente di più, ma è un onore che insomma sia potuta durare un po' di più. E che dire, ringraziamo Gemini Network, che ovviamente ci dà la possibilità di andare in onda su Pirate Radio, e anche il Brancaleone, e chissà, magari un giorno No Kiwi potrà farci qualcosa, non lo so, vabbè, la buttiamo là. Vabbè, detto questo, grazie di tutti, ultimo pezzo e poi sigla di chiusura, e ci vediamo giovedì.